tu puoi capire, la mia città è sotto assedio. Adesso te lo spiego, e no che non mi siedo. La sera dopo cena sta sicuro di incontrare. Espira tutto andare, non ti puoi raccapezzare. Il lampeggiante acceso ce l'hanno tutte le volanti. I motivi ne hanno tanti, perché sono dei giganti. Dei rumori di sirene, c'ho le palle piene. Se non voglio guai, evitarle mi conviene. Centinaia di migliaia di posti di blocco presenti in ogni via, per beccare il tipo giusto. Mitraglietta a tracollo e pistola d'ordinanza, giubbotto antiproiettile e la solita arroganza. Ed anche in discoteca ho perso la tranquillità. Gli sbirri in borghese stanno sempre a controllare. È difficile spacciare, fuori c'è il cellulare. Fioccano i controlli, tutti mandano a pisciare. Mettono macchina con cani, ciaccian con le mani. Ti portano in questura e ti rilasciano domani. Mi telefono di casa, gli è sotto controllo. A volte mi piedinano per ciollarmi come un pollo. La polizia municipale resta sempre in agguato. Colui che ha sgarrato deve essere multato. State sempre tra piedi ed io non me lo spiego. Spesso me lo chiedo, la mia città è sotto assedio. Ed è per questo che ti spiego, ed è per questo che ti spiego. La mia città è sotto assedio, la mia città è sotto assedio. Ed è per questo che ti spiego, ed è per questo che ti spiego. La mia città è sotto assedio, la mia città è sotto assedio. Ed è per questo che ti spiego, ed è per questo che ti spiego. La mia città è sotto assedio, la mia città è sotto assedio. Ed è per questo che ti spiego, ed è per questo che ti spiego. La mia città è sotto assedio, la mia città è sotto assedio. 3:30 di mattino, tornando dalla disco, ancora non capisco, è andato tutto liscio. Arriva una volante, accesi il lampeggiante, sfareggiano al diritto ed accostiamo all'istante. Ci fanno scendere dall'auto pronti all'assalto, ci schiaffano e guarda rail, tutti con le mani in alto. Ci putra addosso la pistola e qui maledetto faro. Scatta la perquisita, li fai furbo nel caso. Rivoltano la macchina, cercate una prova, ma neanche in voglia, lo sbirro nulla trova. Le controllo via radio, non risulta nulla. Ci mandano a casa con una bella multa. Affollano le strade della mia città, usa la brutalità per poterti incastrare. Non c'è nulla da fare, adesso te lo spiego. Il livello non è medio perché siamo sotto assedio. Ed è per questo che ti spiego, ed è per questo che ti spiego. La mia città è sotto assedio, la mia città è sotto assedio. Ed è per questo che ti spiego, ed è per questo che ti spiego. La mia città è sotto assedio, la mia città è sotto assedio. Ed è per questo che ti spiego, ed è per questo che ti spiego. La mia città è sotto assedio, la mia città è sotto assedio. Ed è per questo che ti spiego, ed è per questo che ti spiego. La mia città è sotto assedio, la mia città è sotto assedio.